Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. A dire immigrati clandestini si pensa subito al mare, ai barconi, ai respingimenti. Eppure l'immigrazione che raggiunge l'Italia, alle volte primo punto d'approdo per un viaggio che si concluderà poi negli stati del centro e nord Europa, segue in gran parte le rotte dei Balcani e dell'ex Jugoslavia, piuttosto che quelle del Mediterraneo, di cui siamo oggi così informati. Guido Ruotolo, inviato della Stampa, firma il reportage dal porto di Ancona, vera e propria porta d'ingresso in Europa per migliaia di immigrati. Era una domenica, il 29 marzo scorso. Il TIR, sbarcato da una motonave greca, usciva dal porto dopo aver passato le forche caudine dei controlli doganali. Polizia di frontiera, finanza, dogana. Città deserta, alle 3 del pomeriggio. L'autista, un bulgaro, ingrana la marcia. Un tonfo, sinistri rumori. Il mezzo pesante ha un soprassalto, come se avesse superato un dosso non previsto. Frenata. Il bulgaro scende, si china. Vede sotto le pesanti ruote il corpo maciullato di un ragazzo. Unici indizi per risalire alla sua identità, un telefonino, un documento, anzi, un frammento di una fotocopia di una richiesta di asilo presentata al governo greco, a nome di un iracheno nato nel 1989. Il frammento però è rovinato, indecifrabile. Ma il cellulare, invece, è un libro aperto che consente ai poliziotti di ricostruire il passato della vittima. Sulla rubrica alcuni numeri di telefono. Un cellulare di un greco, di un italiano, di un austriaco, di un tedesco, di un olandese. I riferimenti di quello che doveva essere un viaggio assistito, guidato, protetto da un'organizzazione criminale transnazionale. Probabilmente la meta finale del ragazzo era l'Olanda. Il contatto italiano viene convocato in questura. È reticente, all'inizio. Non parla, cade dalle nuvole. Poi però, alcuni giorni dopo, si presenta ai poliziotti con i familiari della vittima. Era un ragazzo algerino. Ispezionando quel TIR, i poliziotti scoprono un secondo immigrato irregolare. Anche lui algerino, anche lui nascosto nell'intercapedine dello spoiler sul tetto del TIR. Ai poliziotti ha negato di conoscere quel suo sventurato compagno di viaggio. Naturalmente, gli viene notificato un decreto di espulsione. Benvenuti ad Ancona. Una Lampedusa silente, dice subito un frequentatore di Palazzo di Giustizia. Anche qui arrivano a frotte i clandestini partiti davvero da terre lontane. Dall'Iraq, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dal Pakistan, dall'Iran, da Mogadiscio. Arrivano per proseguire in gran parte il viaggio per altre destinazioni. L'Europa del centro-nord. Il porto, una città nella città. Alcuni numeri. Arrivano in media 500 tir al giorno. Ne partono poco meno di 500. Sbarcano dalle navi salpate dalla Grecia, dalla Turchia, dal Montenegro, dall'Albania, dalla Croazia. E sono circa 1,5 milioni i passeggeri che mettono piede ad Ancona. Alla polizia di frontiera, guardia di finanza, ufficio delle dogane, il compito di vigilare sulla merce e i passeggeri. Impresa titanica. Va subito detto che gli uomini delle istituzioni fanno il loro dovere, nonostante le difficoltà di mezzi e organici. E il bilancio dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina è racchiuso in queste cifre. L'anno scorso sono stati rispediti in Grecia, paese Schengen, 2.412 clandestini. Nei paesi non Schengen, soprattutto Croazia, 32. Nel carniere delle forze di polizia ci sono anche i 74 arresti per immigrazione clandestina, la scoperta di 724 clandestini occultati, che sta per nascosti e scovati nei TIR, nei camion, nei camper, e 990 viaggiatori che avevano esibito documenti irregolari. Stendiamo un velo pietoso su quest'ultima scoperta perché, spiegano in procura, in realtà si tratta di documenti falsificati e dunque penalmente censurabili. Con il decreto Pisanu del 2005, per chi esibisce un documento falso, c'è la sanzione penale, insomma il carcere. Ma il viaggio nelle diverse Lampedusa silenti si imbatte in un'altra scoperta dolorosa, la fuga dei minori non accompagnati, spiega il sindaco di Messo, coinvolto in un'indagine per concussione e corruzione, Fabio Sturani, i minori per i quali sono stato nominato tutore, in qualità di sindaco, sono circa 200. Di questi almeno una sessantina sono irreperibili. Insomma, scomparsi, secondo altre fonti, gli scomparsi sarebbero un'ottantina. Va detto che il comune trasferisce i minori in centri di accoglienza, in strutture convenzionate che non sono carceri. Nel 2008 il comune ha speso per i minori 3 milioni di euro. E dunque è facile evadere da queste strutture. Voglio precisare, prosegue l'ex sindaco, che gran parte di questi minori sono sedicenni o diciassettenni e dunque fuggono prima di avere la maggiore età e soprattutto per raggiungere le loro famiglie che vivono in altri paesi dell'Unione, come la Germania. Nel porto di Ancona le convenzioni internazionali vengono rispettate. Insomma, d'intesa con il Consiglio italiano per i rifugiati, vengono sviluppate approfondite istruttorie per capire se tra i clandestini ci sono possibili richiedenti asilo. E nel 2008 sono state istruite 27 richieste d'asilo. Nei primi mesi di quest'anno si assiste a un nuovo fenomeno. Intanto gli arrivi dal continente africano. Gli emigranti si spostano via terra per la Grecia. La tragica storia dell'algerino maciullato sotto il tir è una conferma. Chi nel porto ci lavora assicura: in questi primi mesi dell'anno il numero dei clandestini sembra diminuito. Con l'estate ci aspettiamo una nuova ondata di arrivi. Avete ascoltato la lettura del reportage di Guido Ruotolo Nel porto dei disperati, da La Stampa del 19 maggio. Sono cresciuti del 15% gli sportelli che operano secondo le regole del Corano. In poche parole, niente mutui spazzatura e leve finanziarie solo se sufficientemente garantite da una proporzionata capitalizzazione. Ce lo racconta Libero, del 19 maggio, con un articolo a firma di Claudio Antonelli. A invadere l'Occidente non sarà il dinamismo demografico dei musulmani o la fede islamica. Potrebbero però essere i risvolti finanziari della Sharia, la legge del Corano. Gli sportelli islamici hanno letteralmente quadruplicato il loro trend di crescita grazie alla crisi di Wall Street e delle piazze europee. La diffusione dei prodotti come i sukuk, i bond legati al Corano, è cresciuta con una media annuale del 4% fino al 2007. Da giugno 2008 ad aprile 2009 l'impennata ha invece quasi raggiunto il 16%. Motivo? La finanza islamica, da non confondere con quella araba dei petrodollari e dei fondi sovrani, vieta i tassi di interesse e soprattutto impone una compartecipazione del rischio tra emittente e sottoscrittore. In poche parole, niente mutui spazzatura e leve finanziarie, solo se sotto c'è una proporzionata capitalizzazione. La finanza islamica ha forti principi ed è solida, per questo continuerà ad attrarre investitori, sia musulmani che non, in cerca di un modello finanziario alternativo rispetto a quello classico, ha dichiarato Farmid Abi, avvocato e partner dello studio legale Norton Rose, durante l'European Forum of Islamic Finance. Al momento gli asset islamici rappresentano una percentuale piccola sul totale del mercato internazionale, circa il 4%. Ma per l'avvocato, la capacità di evitare cartolarizzazioni con tutto ciò che ne consegue renderà i portafogli legati al Corano dei pilastri internazionali. Ecco che, dopo Londra, anche Parigi fa un passo fondamentale in questa direzione. Il ministro dell'economia, Christine Lagarde, ha annunciato di voler aprire una banca islamica francese sul modello dell'Islamic Bank of Britain e del sistema lussemburghese. Nella piccola nazione UE, la prima ad aprirsi agli orizzonti dei sukuk. Al momento sono quotati 14 piani obbligazionari islamici per un valore di 5,5 miliardi di dollari, mentre sono 31 i fondi di investimento conformi alla Sharia, tanti quanti le diverse piazze africane della costa est trattano nel loro complesso. Novità anche da lontano, ma interessante per via dei legami petroliferi con l'Italia, Kazakistan. Il presidente kazako ha firmato una serie di emendamenti per permettere la costituzione di istituzioni finanziarie islamiche, proprio con lo scopo di far entrare il Kazakistan nel flusso generato dalla finanza parallela del Corano, con la speranza di colmare la fuga dei capitali occidentali. In Italia solo Monte Paschi Siena e ABN Amro hanno stipulato accordi per offrire a chi lo chiedesse mutui islamici, che in realtà a sud delle Alpi non sono per niente convenienti a causa delle plurime clausole notarili. Per gli altri strumenti appetibili, invece, niente da fare. Palazzo Koch continua a negare le autorizzazioni ad aprire banche islamiche, mentre sono molti gli analisti pronti a scommettere che dopo un eventuale ok di Banca Italia assisteremo a un vero e proprio boom. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Antonelli «L'Islam conquista i portafogli», da Libero del 19 maggio. Letture di Radio 24. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, in Afghanistan, a pochi chilometri da Kabul, è in corso una faticosa battaglia per i diritti civili, assicurare alle ragazze afghane il diritto allo studio. Sullo sfondo anche possibili avvelenamenti di massa delle studentesse e delle insegnanti per costringerle a non frequentare i locali scolastici e rimanere così analfabete. L'articolo è tratto da Il Riformista, del 14 maggio, a firma di Emanuele Giordano. Quando qualche giorno fa, alla scuola Aftab Baki di Mahmoud Raki, nella provincia di Capisa, 84 studentesse si sono sentite male accusando i tipici sintomi dell'avvelenamento, il direttore scolastico Abdul Ghani Edayat le ha mandate subito a casa. Non solo i sintomi erano denunciati anche da 11 maestri e 3 inservienti dell'istituto, ma la direzione della scuola temeva che si trattasse di un avvelenamento da gas tossico per intimidire, se non uccidere, le giovani allieve. Abdul Ghani Edayat ha detto a un inviato del Guardian che dietro al fattaccio ci sono i nemici dell'Afghanistan e che era sicuro si trattasse di avvelenamento al 100%. In effetti, è il secondo episodio di questo tipo nel giro di pochi giorni. È già successo a Parvan, la provincia vicina, e, sempre a Parvan, era accaduto anche a fine aprile, quando alcune decine di studentesse erano state portate all'ospedale locale con la stessa sindrome. Se si guarda una cartina dell'Afghanistan, Parvan e Capisa sono a un pugno di chilometri a nord di Kabul. Non nelle aree tipiche del conflitto. Non di meno, si tratta di località ad alta infiltrazione talebana. E se non sempre la guerriglia può combattere con le armi, ecco allora che utilizzerebbe altri sistemi per colpire le scuole femminili, una realtà che non piace agli islamisti. La casistica medica avverte, lo stesso Guardian riportava alcuni episodi accaduti negli Stati Uniti, che può trattarsi spesso di effetti psicologici, mal di testa, vomito, anche come fenomeno collettivo, causati da forte stress psicologico. Per dirla in altre parole, si sia trattato di gas tossici liberati ad hoc o semplicemente di stress, tutto riconduce a una sola questione: la condizione delle donne in Afghanistan. A 7 anni dall'occupazione militare del paese e dalla cacciata dal regime oscurantista dei talebani, la condizione femminile continua ad essere di una sofferenza endemica. Non dappertutto e non dovunque, e anzi, il settore scolastico, come rivelano i dati dell'UNICEF, è l'unico ad aver fatto, in termini di accesso al servizio, grossi passi avanti, e sarebbe anche l'unico, rivelano i sondaggi, in cui gli afghani stessi riconoscono una delle poche vittorie della cooperazione internazionale. Tutti, in effetti, costruiscono scuole in Afghanistan, ma il problema non sta lì. Nella scuola elementare di Narin, Afghanistan profondo della provincia di Baghlan, visitiamo una classe che, proprio per via dell'aumento delle allieve, è costretta a seguire le lezioni sotto un tendone allestito nel cortile. La classe è rigidamente femminile e tutte le ragazze portano il velo. All'epoca dei talebani avevamo visto classi simili, con la differenza che allora la tendenza prevalente del regime era impedire totalmente l'accesso a scuola delle femmine. Non parliamo di classi miste che peraltro non esistono nemmeno ora. La condizione delle giovani allieve a Kabul però è migliorata, anche solo rispetto a un anno fa. Il burqa non è scomparso, ma sta diventando sempre più raro, persino nel bazar del centro, un luogo dove si incontrano tutte le classi sociali. Le donne portano il velo, ma non è difficile vedere giovani ragazze truccate e con vestiti attillati. Nelle campagne però è molto diverso e la condizione della donna resta sotto pressione. Nella sede dell'Afghan Women Network, a Taimani, incontriamo le rappresentanti di questa rete, che raccoglie una 60ina di organizzazioni femminili. Non è poco per un paese come l'Afghanistan. E fa una certa impressione essere circondati, per una volta, da un piccolo universo femminile. Sono donne agguerrite, ma siamo sempre in difficoltà, dice una di loro. Anche se del nostro network fanno parte alcune parlamentari, siamo sotto tiro e temiamo per la nostra incolumità. Le notizie di intimidazioni e minacce di morte anche per alcune coraggiose parlamentari sono all'ordine del giorno. Infine, se è difficile poter far ascoltare la propria voce, per le donne è difficile semplicemente vivere. Il rischio di morire per cause connesse alla gravidanza o al parto, dicono i dati dell'UNICEF, è pari a 1 su 8, il secondo tasso più alto al mondo. La percentuale di decessi materni oscilla tra il 16% di tutti i decessi di donne in età fertile a Kabul e il 64% nel distretto Rag nel Badakhshan. Diritti primari, come appunto la salute, negati anche nell'Afghanistan di Karzai. Adesso queste donne coraggiose vorrebbero far arrivare la loro voce al G8. Sanno che quest'anno si svolgerà in Italia e vorrebbero preparare un documento da far arrivare ai grandi della terra. Il mondo segue il loro dramma a sprazzi, come è accaduto per la recente legge sul diritto privato degli sciiti, che ribadisce come le donne siano le schiave dei propri mariti. Ma da Taimani la loro voce potrebbe arrivare al consesso che decide le sorti del pianeta, che non è certo perfetto, e lo è ancor meno se non vengono rispettati, ovunque, i diritti dell'altra metà del cielo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Emanuele Giordana, Rabbia talebana contro le scuole delle piccole donne, da Il Riformista del 14 maggio. Lunedì 18 maggio ha chiuso i battenti l'ultima edizione di uno degli eventi culturali più importanti su scala europea, la Fiera del Libro di Torino. Massimo Gramellini ha dedicato il suo Buongiorno di martedì 19 maggio proprio alla fiera e allo straordinario riscontro di pubblico che ha caratterizzato questa edizione. Chi sono i 307.650 individui che, record dei record, hanno visitato questa edizione della Fiera del Libro? Un isolotto di intelligenza alla deriva in un mare di grandi fratelli e letterine? L'idea di contrapporre 307.650 illuminati a 59 milioni di presunti beceri che vanno in piazza solo per applaudire amici o festeggiare gli scudetti mi puzza di razzismo intellettuale. E non mi convince neanche l'ipotesi che siano l'avamposto di un'altra Italia, misurabile a milioni, ma comunque drammaticamente minoritaria. Un'Italia sobria e normale che rifugge le telecamere e ha desideri sobri e normali, fra i quali quello di sdraiarsi su una maca all'ombra di un albero con un libro fra le mani e un amore sulle ginocchia. Ho l'impressione e in taluni casi la certezza che fra i 307.650 templari del libro ci siano persone che guardano amici e pure le partite, che votano Lega e Berlusconi, che leggono solo i bestseller da autogrill e a volte nemmeno quelli. Gli esseri umani sono più complessi e variegati di come li rappresenta questo buffo bipolarismo antropologico di moda, in base al quale chi vota a destra lavora, rutta e sogna di impalmare una velina, e chi vota a sinistra studia, arriccia il naso e sogna di impalmare una contessa. Molti di noi, la maggioranza spero, non stanno sempre o di qua o di là, ma un po' di qua e un po' di là, e un po' da nessuna parte, per fortuna. E non perché siano cerchiobottisti, ma perché persino in un'epoca di conformismi nessuna vita è riconducibile a un questionario omogeneo di luoghi comuni. Era il Buongiorno di Massimo Gramellini alla fine della fiera, da La Stampa del 19 maggio.